Bravo. Hotel 26, Crazy Horse 1-8, have 5 to 6 individuals with AK-47s. Request permission to engage. Roger that. We have no personnel east of our position, so you are free to engage, over. All right, we'll be engaging. Roger, go ahead. I can't get them now because they're behind that building. Anybody find the building? Call back. We got an RPG. All right, we got a guy with an RPG. I'm on a fire. Okay. No, hold on. Let's come around. We can go in through now from our point of view. Roger, listen. Yeah, we're going to come around. Yeah, we're going to come around. I saw an individual with RPG. Getting ready to fire. We won't get out. Yeah, we got a guy shooting. Now he's behind the building. God damn it. He's coming around. He was right in front of the Brad. About there, 1 o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking, once you get on, it's open off. Yeah, Roger. I see your element. You got about 4 Humvees out along this. You're clear. All right, firing. Line here. With the stage line, let me know when you get it. Watch you. Per Chris, 37 anni, caporale dell'86esimo battaglione trasmettitori dell'esercito americano, la guerra non era un mistero. 2 turni in Iraq, dal 2004 al 2006, passati sul campo, in condizioni ancora più difficili dei suoi commilitoni. Loro avevano un fucile, lui un microfono e un fardello supplementare sulle spalle. La radio l'aveva scelta come compagna nell'adolescenza, o forse lei aveva scelto lui, ma nel caos di Baghdad non faceva molta differenza. A Chris toccava garantire i collegamenti tra la sua unità e il comando, ed era uno dei migliori in quel lavoro. Lui i segnali li cacciava, assieme all'antenna della sua SyncGars, era come se li avvertisse nell'aria. Un talento, insomma. Era un pomeriggio come tanti altri, quello in cui le voci concitate ed asettiche di Crazy Horse 1-8 e Bushmaster fecero irruzione nell'auricolare di Chris, in un mezzo cingolato non lontano dall'area in cui i due Apache stavano crivellando di piombo delle persone armate soltanto di macchine fotografiche che i suoi colleghi piloti avevano scambiato per RPG, nonché i bambini di un soccorritore. Un soldato impara tante cose in un posto come l'Iraq, per prima quella di non giudicare, specie quando si tratta di persone che vestono la sua stessa uniforme. Tuttavia, troppe cose non erano più come prima per lui, a partire dalla frustrazione per una missione che andava ovunque, salvo dove avrebbe dovuto, e per quelle menzogne sulle armi di sterminio di massa, di giorno in giorno più evidenti. Chris tornò nel New Jersey, ritrovando sua moglie e i suoi due figli, ma una volta che hai respirato a lungo la polvere del deserto, nulla è più come prima. Quelle voci, quei toni a 1200 Hz che facevano da colonna sonora delle sue giornate a Baghdad, non s'udivano più, lasciando nella sua mente un silenzio assordante. Oltretutto, quando hai scorrazzato usando alcuni dei modelli di radio da campo tra i più sofisticati, ascoltare le tue canzoni preferite attraverso un iPod smette di essere divertente, diventa noioso. Chris decise che era ora di ritrovare dei suoni di guerra. Si comprò un ricevitore in onde corte, stendette un cavo dal suo balcone a un vicino palo del telefono, come antenna, e attese che la notte scendesse, portando con sé la propagazione che avrebbe fatto riecheggiare nelle sue cuffie suoni e note dai quattro angoli del mondo, ove una guerra rendeva meno interessante uscire sabato sera. Era quello che cercava. Signori, questo è Bandscan, un programma sulle onde corte, ma se state aspettando di capire a che ora trasmette in italiano Radio Argentina Internazionale, oppure qual è l'indirizzo di Radio Cuba, spegnete pure la radio. Questo è un caleidoscopio sonoro, un'esplorazione notturna dello spettro, alla ricerca di quanto i canali tra i 2 e i 30 MHz possono portare nelle vostre orecchie. Se un tempo, a guerra fredda imperante, queste frequenze pullulavano di propaganda da est a ovest e viceversa, oggi la situazione è cambiata, ma solo in parte. A chi si ribella, a chi combatte un regime, a chi odia un nemico, un trasmettitore torna sempre estremamente utile. In questa puntata seguiremo Chris nella caccia dei suoni di guerra. Dopo aver lievemente roteato la sintonia, Chris non credette alle sue orecchie. 5.835 kHz alle 19.45, ora di Greenwich. Lì, secondo le allocazioni internazionali di frequenza, non avrebbe dovuto esserci niente. Eppure, una voce in arabo era nitidamente distinguibile. بالإضافة إلى طاقمها، وهي تحمل أكثر من 60 طنا من المعونات الغذائية والطبية المقدمة من جمعيات أهلية الأردن. وكان مقررا أن تقل السفينة 85 متضامنا، قررت اللجنة المنظمة إشراكهم بالرحلة، غير أن الرحلة شهدت إشكالات متعددة بحجة أنها مصممة ولا يحق لها نقل الركاب بالعشرات. منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في قطاع غزة من كارثة متوقعة بسبب الحصار الصهيوني والعدوان الهمجي الأخير، Al-Aqsa è uno dei due canali TV satellitari riconducibili ad Hamas, il movimento integralista palestinese attivo nella striscia di Gaza. Nonostante ciò, gli studi si trovano in Libano. Nei giorni dell'offensiva dell'esercito di David nella Strip, all'inizio del 2009, comunque qualcuno iniziò a diffondere clandestinamente l'audio del canale televisivo in onde corte, così da fargli superare agevolmente i confini mediorientali. Alcuni esercizi di rilevazione aiutarono a individuare il trasmettitore in Iran. Quelle voci, così cariche di rabbia per oltre 500 palestinesi periti dall'inizio degli scontri, portarono Chris a chiedersi con quale tranquillità i soldati israeliani potessero scendere nei loro mezzi. La risposta non tardò ad arrivare, portata dai 6.973 kHz di Galei Zahal, la radio ufficiale delle Israeli Defense Forces. I Rolling Stones, Brown Sugar, incredibile ma vero, andavano alla guerra e Mick Jagger gli tirava sul morale. Esattamente come in una delle tante stazioni FM delle metropoli americane, ma con una differenza. Per quei ragazzi poteva essere l'ultima volta che il ritornello d'élite di Sticky Fingers accarezzava le loro orecchie. Chris ebbe un impeto di fastidio, quell'indifferenza nella programmazione lo urtò, va bene tenere alto il morale, ma così era davvero troppo. Cercò quindi un'altra trasmissione clandestina da quell'area del mondo, senza faticare troppo a trovarla. (6.220 kHz, un'altra trasmissione che non avrebbe dovuto esserci, oltretutto nel bel mezzo di una banda destinata internazionalmente ad usi marittimi. Al-Quds è l'altro canale satellitare degli islamisti palestinesi che abbracciano la Jihad, e quello era il suo audio. Anche stavolta ignota era la mano, ma non la fede, di chi riversava il segnale in onde corte per farlo rimbalzare ai quattro angoli del mondo. Chris passò oltre, convinto che la follia della guerra nella striscia trovasse un'insana specularità in quella battaglia a suon di onde radio. La voce di altri resistenti, dopo poco, interruppe la sua nuova esplorazione dello spettro. La radio della Repubblica di Abkhazia, anche lei dilaniata da un conflitto contro le truppe della Georgia che non voleva saperne del separatismo di quel popolo, e men che meno era disposta a perdere un pezzo del suo territorio, stava trasmettendo un programma musicale. انتجار الصدام الزيرة في مصر. C'è tempo per distrarsi quando là fuori sono le armi a parlare? Chris ricordava le sue notti a Baghdad e pensava di sì, però quei suoni e la loro quasi monotonia restituivano nitidamente tutto il dolore dal quale non riuscivano a liberarsi le genti di quell'angolo di ex Unione Sovietica. L'indice del caporale tornò meccanicamente sulla sintonia del ricevitore, abbandonando i 9.495 kHz. Si era fatto tardi, mezzanotte e 45 di Greenwich, le 2.45 del mattino a Roma, e la propagazione permetteva ora di andare ancora più lontano. Chris parcheggiò su un segnale evanescente difficile da riconoscere, ma la frequenza non lasciava adito a dubbi. I 5.770 kHz volevano dire una stazione sola, Myanmar Defenses Forces Broadcasting Unit, la radio dell'esercito del generale Tan Shwe, nell'ex Birmania. Il trasmettitore era situato a Taniuji, nello stato di Shan, e a Chris non sembravano vere due cose. La prima era che il segnale potesse raggiungere una certa intensità, viste le poche centinaia di watt di potenza. A quel punto però gli tornarono in mente le parole di un amico di scorribande radiofoniche: le onde corte sono fatte per andare lontano. L'altra cosa di cui non si capacitava era come potesse una giunta militare lasciar trasmettere musica di gusti giovani sulla radio del suo esercito. Ancora una volta, però, pensò che non stesse a lui porre troppe domande. In fondo, le onde corte non potevano rispondere, ma limitarsi a restituire ciò che qualcuno trasmetteva. Riprese a inseguire altri segnali. In un ideale viaggio verso est, eccolo cadere su una trasmissione destinata ad alimentare speranza e verità in un altro popolo oppresso. Thank you. Voice of the People trasmette da una caserma, non meglio individuata, dell'esercito sudcoreano e serve a far arrivare messaggi e notizie al popolo della Repubblica Popolare Coreana, in quel nord dove non vi è accesso all'informazione né alla democrazia. Un po' come Radio Martì per i cubani rimasti in patria. Il segnale, sui 6518 kHz, era molto disturbato, ma la formazione professionale di Chris includeva il jamming, ovvero la tecnica di disturbo volontario delle trasmissioni altrui. A Nord sapevano, non potevano staccare la spina e allora non gli restava altro che tentare di rendere più difficile possibile la ricezione. Chris aveva letto di come una pratica del genere fosse assolutamente sistematica in Cina. In quel caso, in assenza di un conflitto, i messaggi da bloccare erano quelli di indole rivoluzionaria per il governo di Pechino. In prima battuta occorreva che nessuno riuscisse a sentire Sound of Hope, la stazione della setta Falun Gong, movimento spirituale che propugna pratiche ritenute aberrazioni pericolose che vanno contro la scienza dal governo cinese. Il compito di azzerare quel segnale, tuttavia, viste le numerosissime frequenze, è arduo e sugli 8400 kHz Chris riuscì a sintonizzarlo per pochi secondi, seppur in mezzo alle interferenze. 有的人在维护着监控，这个声音虽然很深的应该也醒了，如果人再次维护它，显然就是人的自己。就这样的形式，那不能留的。你听得不能存在下去。就从迫害法轮功国际大学，全部就公布了最新的中共活摘法轮功学员器官的证据后，现在人类越来越多的医疗群体已经被收拾了。同时也有越来越多的人站出来谴责中共的罪行，希望是中国记者报道台记者韩英采访报道。 Nella lista dei nemici erziani di Pechino, tuttavia, non c'erano solo i seguaci di Li Hongzhi. Anche i ribelli tibetani avevano messo le mani su un trasmettitore a onde corte e sui 17.563 kHz lanciavano i loro messaggi di pace e libertà al mondo. Chris sorrise, felice, pensando a tutte le volte in cui il Dalai Lama, ospite di autorità straniere, aveva ricevuto orecchie da mercante, poiché i contratti offerti dal governo cinese erano verbo molto più interessante di quello propugnato dalla guida spirituale del Tibet. Voice of Tibet quel giorno si sentiva bene, ma Chris, da soldato ferrato in materia di trasmissioni, sapeva che ciò rappresentava un evento sporadico. La tecnica cinese di jamming era spietata. Il disturbo avveniva con musica orchestrale cinese abbondante nell'uso delle percussioni. Il brano, un continuo da un'ora, veniva trasferito via satellite, tanto che due appassionati australiani avevano individuato il relativo feed ai trasmettitori prossimi ai territori dove le voci di libertà non dovevano arrivare. La comunità internazionale, radioamatori compresi, imbufaliti perché il jamming avveniva anche su alcune delle loro frequenze, lo aveva ribattezzato Fire Dragon, il dragone di fuoco. A Chris, quegli impeti musicali ricordavano proprio delle palle infuocate. Thank you. Dopo quell'ennesima scoperta, Chris alzò gli occhi, rimasti incollati al display del ricevitore sino ad allora. L'alba illuminava il suo prato in quell'angolo di New Jersey. Da lì a poco, i suoi figli sarebbero scivolati giù dal letto. Non gli restò che spegnere la radio, pago dei frutti di quell'esplorazione. Le armi non sono le uniche a poter combattere una guerra. Buonanotte, Chris. Ti ritroveremo alla prossima puntata di Bandscan.